Ti presento due vecchi amici miei, somme a zero sciani, sono i due di denari e insieme a loro tu risparmierai assai. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Benvenuti in paradiso insieme a noi. Non vogliamo più serpenti. Benvenuti in paradiso finché vuoi. Benvenuti tra noi. Ma scusa Mauro, di che paradiso stiamo parlando esattamente? Intanto buongiorno. È un saluto da Roma. Buongiorno, grazie cara Deborah, ma domani ti raggiungo senz'altro. Adesso sì. Sono rimasto qui a Milano, che così come tutti i bravi compagni, quando restano senza la signora, la compagna, riordinano un po' la casa, magari imbiancano, sì, voglio vedere venerdì, danno una rinfrescata, e quindi sto sistemando un po' lo studio. Però sono contento di collegarmi con te per precisarti che stiamo parlando di paradisi fiscali. Guarda, non avrei avuto dubbi da parte tua, naturalmente, di quali altri d'altronde avremmo potuto parlare. D'altra parte, sai che il segretario generale dell'OCSE, José Ángel Gurría, durante l'ultimo summit di Davos, ha spiegato che la ricchezza così, diciamo, derivata, occultata, possiamo dirlo, ammonterebbe. Vedi, tu, scegli tu la parola più appropriata per descrivere. Dimenticata, il concetto. Io userei questo dimenticata, nel senso che sono dei patrimoni che spesso si sono dimenticati, i loro possessori sono dimenticati di segnalarli al fisco, al loro fisco di competenza. Può capitare, perché spesso sono anche persone molto facoltose, hanno tanti pensieri e quindi, avendo tanti pensieri, magari affidano questa cosa a qualcun altro che poi se lo scorda e loro non hanno poi certo modo di verificare. Comunque, secondo Gurría, la ricchezza offshore sarebbe attorno ai 7.500 miliardi di euro, 1.500 appartenenti a cittadini europei. E poi ho anche una forse bella notizia. Allora, per quanto riguarda il particolare campionato europeo dei paesi europei che occultano nei paradisi fiscali, il primo paese offshore, tu forse avresti detto l'Italia, io lo so, stavi già malignando, vero? No, guarda, ma la malizia non mi appartiene. Su questi temi in genere sei tu quello un pochino più malizioso, ma dimmi. Non è l'Italia, ma è la Germania. La Germania avrebbe una ricchezza offshore pari a 331 miliardi di euro. Poi la Francia con 277 miliardi. Al terzo posto era stato calcolato, ma i dati, ohimè, sono un po' risalenti, perché stiamo parlando di dati del 2016, era stato calcolato il Regno Unito con 218 miliardi. Ma siccome adesso c'è stata la Brexit, allora il Regno Unito non può più essere sul podio, e sul podio ci andiamo noi. 142 miliardi di euro, dato 2016. Allora, sai, per così lasciare da parte un po' tutte queste preoccupazioni per chi il proprio patrimonio lo accantona in paradisi offshore, sai che cosa facciamo? Noi occupiamoci di quelle famiglie che invece in Italia risparmiano qualcosa come 4.000 miliardi di euro, che è l'ammontare della ricchezza finanziaria delle famiglie, perché questo invece è il grande tema di cui si parla qui a Roma e che io sono venuta ad affrontare anticipando anche il tuo arrivo. Spieghiamo ai nostri ascoltatori che da oggi per 3 giorni Due di Denari sarà a Consulenza, siamo qui a Roma all'Auditorium Parco della Musica, e Consulenza è l'evento del mondo della consulenza finanziaria, per cui direi che possiamo fare questa scelta. Cosa ne pensi, Mauro? Sì, stiamo con coloro che hanno buona memoria, diciamo così, e si esatto. Ricordano e si ricordano, se hanno degli introiti, anche di dirlo all'Agenzia delle Entrate. Ma così, non perché poi l'Agenzia delle Entrate lo voglia assolutamente sapere, ma è simpatico che in questo modo si contribuisca un po' anche al benessere di tutti, se ci riusciamo. Certo, e questo è il primo adempimento, direi. Poi il secondo, ma forse può diventare anche primo, è risparmiare bene, diversificando bene, scegliendo il buon interlocutore che ci aiuti a compiere delle scelte corrette secondo i nostri bisogni e quelli della nostra famiglia. E qui oggi ne abbiamo parecchi, perché saranno circa 3.000 almeno fino a questo momento, Mauro, gli avventori. I partecipanti a questa kermesse sono circa 3.000, secondo le anticipazioni che mi ha già dato il nostro ospite di quest'oggi. Se sei d'accordo, prima di fargli ascoltare anche il giornale radio del risparmio, lo presento ai nostri ascoltatori e te lo faccio anche salutare. Ma con piacere. Maurizio Bufi, presidente di ANASF, l'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari. Presidente, benvenuto e grazie. Buongiorno a voi, buongiorno Deborah, buongiorno Mauro, buongiorno agli ascoltatori. E allora possiamo anche approfittare, Mauro, per interpellare i nostri ascoltatori e magari convocarli per intervenire alla trasmissione di oggi. Che cosa vogliamo chiedere loro? Allora, intanto chiediamogli se in questi anni di MIFID, in questi anni in cui appunto Maurizio Bufi ha avuto la responsabilità della presidenza di ANASF, il loro rapporto con il consulente è migliorato, c'è stata una maggiore, ad esempio, comprensibilità, trasparenza, sono riusciti a relazionarsi anche meglio, magari hanno anche acquistato il nostro libro, Deborah, anzi lì vicino mi ricordo c'è una grande libreria. Poi fai un giretto, vedi se lo hanno messo in bella evidenza come merita, risparmiare. Se no vado io e sposto tutto e lo metto lì casualmente in vetrina, sì, che sì. Roba brutta, Mauro, ma che immagine diamo di metti? Ma dai, smettila. Beh, ma noi ci teniamo che le persone, come dire, si acculturino, si preparino, e proprio per ma quello abbiamo fatto quest'opera di divulgazione, per amore della scienza. Allora, certo. 800240024, volete parlarci di risparmio gestito, gestione dei vostri risparmi, difficoltà, ma anche cose piacevoli che possono essere occorse. Veniamo da un biennio anche molto particolare. Sostenibilità, esatto, sostenibilità sarà questa anche un po' la declinazione che viene data in questi giorni a questo argomento, al mondo della consulenza, che deve diventare sempre più sostenibile, non tanto perché oggi il mondo dei consulenti finanziari sono chiamati a proporre anche per un ulteriore obbligo degli adempimenti MIFID, prodotti che hanno questa natura, il cosiddetto ESG, che dopo spiegheremo di nuovo ai nostri ascoltatori, ma sostenibili anche per loro, chiaramente guadagnare come si deve, cercare di gestire un po' questi margini che per il mondo della consulenza si vanno riducendo sempre di più, quindi ci sono tante sfide anche per la categoria che sono anche di natura previdenziale e ne parleremo nel corso della trasmissione. Bene, non ho dato l'altro numero, aspetta, ah, no? Perché devo anche ricordare che essendoci così suddivisi, io a presidiare Milano e tu a presidiare Roma, abbiamo anche la possibilità di sorvegliare sia gli SMS che i messaggi, sì, WhatsApp. Il numero è sempre quello, 349-238-6666. Stanno già cominciando a scrivere, qualcuno ci segnala melanconicamente che purtroppo non ha potuto portare i risparmi in un paradiso fiscale, ma li sta tenendo sotto il materasso. Forse non è la scelta, ecco, giusta, ma lo chiederemo al presidente Bufi. Bene, adesso il veloce giornale radio del risparmio che naturalmente abbiamo confezionato anche oggi, pur in questa puntata suddivisa in due. Via! Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. 7000 caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare. Ecco, io se devo dirti un altro me ne farei volentieri, ma adesso vado a prenderlo con il presidente Bufi non appena abbiamo terminato la trasmissione. Ma in realtà il tema del caffè, perché introduce, caro Mauro, il nostro giornale radio del risparmio. Mi pare che ci siano delle notizie carine, interessanti, che riguardano il mondo della lavazza. Sì, perché. E adesso qua penseranno che facciamo pubblicità come Amazon, e tutto, certo, il mondo che generalmente, beh, sicuramente, sosteniamo. Ma sì, certo, perché nessuno conosceva il marchio Lavazza prima che tu lo nominassi in trasmissione e io lo ribadissi, e quindi a questo punto noi ci aspettiamo naturalmente una fornitura adeguata, perlomeno a vita, di caffè Lavazza. Naturalmente sto scherzando, prima che qualcuno mi prenda sul serio. Vogliamo invece parlarvi di Lavazza perché è stato firmato un accordo integrativo molto interessante allo stabilimento Lavazza di Gattinara in provincia di Vercelli. Questo accordo, che è stato sottoscritto da aziende e sindacati dell'alimentare, vale per 2020-2023 e in sostanza è tutto orientato a rafforzare il coinvolgimento dei dipendenti nel raggiungere quelli che hanno chiamato obiettivi di stabilimento. E allora che succede sostanzialmente? Che c'è una istituzione di una banca delle ore per dare la possibilità ai dipendenti di convertire gli straordinari in permessi. C'è naturalmente lo smart working per gli amministrativi, per altre mansioni ovviamente questo tipo di prestazione non è possibile. C'è tutto un capitolo di sostegni alla famiglia che dà, tra l'altro, e questo ha dato un po' il titolo anche sui giornali, anche sul nostro, anche sul Sole 24 Ore, al riconoscere una gratifica matrimoniale che viene erogata di 250 euro per tutte le unioni stabili. Quindi sostanzialmente, questa precisazione è interessante, però, cioè, tutte le unioni stabili, per chi lavora naturalmente nello stabilimento Lavazza di Gattinara, possono usufruire di questa gratifica di 250 euro, e poi per i 400 addetti sempre lì di Gattinara, bonus bebè da 250 euro per ogni dipendente in occasione della nascita o naturalmente adozione di un figlio, poi più i percorsi di anzianità aziendale, premi per i percorsi di anzianità aziendale e così via. Però l'aspetto, diciamo così, di sostegno alle famiglie, alle coppie e alla natalità è quello naturalmente più interessante e più anche foriero di sviluppi successivi. Speriamo che continui questo solco. Non è il primo caso in Lavazza, ce ne sono stati altri, però è bello vedere che queste iniziative aumentano. È sempre più welfare aziendale che viene praticato da un numero crescente di aziende, molte sono in difficoltà, d'altronde il nostro tessuto economico produttivo è fatto soprattutto da piccole imprese che magari non sempre riescono a rendere disponibili questi servizi ai propri dipendenti, ma in realtà anche grazie al mondo assicurativo e finanziario ci sono pacchetti che si possono creare anche per aziende di taglia un pochino più piccole, quindi essere più al servizio dei lavoratori anche attraverso queste modalità di assistenza, se vogliamo, di retribuzione alternativa, chiamiamola così. Volevo invece raccontarti, io Mauro, che c'è il via libera definitivo ormai del Ministero dei Trasporti per l'assegnazione del contributo o del rimborso per l'acquisto dei cosiddetti dispositivi antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai 4 anni. La Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto per l'assegnazione del contributo. Per ottenere il bonus è necessario registrarsi e lo sarà a partire dal 20 febbraio. Noi lo cominciamo a dire, ma faremo una trasmissione ad hoc quel giorno. Sulla piattaforma informatica di Sogei, accessibile su www.sogei.it o su www.mit.gov.it. Il contributo sarà erogato mediante il rilascio di un buono spese elettronico del valore di 30 euro, valido per l'acquisto di un dispositivo, appunto, e anche chi lo ha già acquistato avrà diritto al rimborso. Per farlo, per averlo, bisognerà farne richiesta registrandosi anche in questo caso sulla piattaforma. E allora, una notizia che mi dispiace dover dare con il giornale Radio del Risparmio proprio in occasione del primo giorno di consulenza, ma che invece ci serve. Invece sì, poi può essere anche molto utile come ammonimento e così istruire un po', indirizzare un po' il colloquio con il presidente Maurizio Buffi. Una signora di Nardò, un paese del Salento, era stata convinta a investire i risparmi di una vita in quella che le avevano detto, che lei immaginava essere una assicurazione sulla vita, gli hanno proposta in banca. Peccato però che quei 5.000 euro, che per lei erano appunto i risparmi di una vita, e accantonati euro, un euro dopo l'altro, strappandoli alla pensione, si sono però volatilizzati. Si è ritrovata senza un centesimo in tasca, perché infatti non aveva sottoscritto un'assicurazione sulla vita, ma invece un'obbligazione finanziaria ad alto rischio. La buona notizia è che l'istituto bancario e la società che emetteva questo prodotto sono state condannate dal giudice di pace a restituire tutto il denaro investito, perché a giudizio del giudice di pace, scusate il bisticcio, è stato ritenuto un vero e proprio raggiro quello che è stato perpetrato ai danni di questa signora. E naturalmente questo dimostra come la trasparenza, il sapersi spiegare, saper spiegare al cliente sia determinante. In questo caso appunto un'obbligazione ad alto rischio, spacciato, verrebbe da dire, per quanto ha deciso il giudice di pace, per prodotto finanziario strassicuro, polizza sulla vita, e probabilmente le hanno anche raccontato che era tutto garantito e non c'erano rischi. Deborah. Bene, che si fa adesso? Velocemente apriamo il nostro sportello reclami per poi entrare nel cuore di consulenza? Volentieri, dillo. Dillo a due di denari. Radio 24, buongiorno. Mi accade di fare da nord a sud su strade statali 400 chilometri almeno un paio di volte al mese. Solamente sulla Romea sono stato multato per eccesso di velocità su tratti di smistamento, mai per divieto di 50 in zone abitate con attraversamenti pedonali, da parte di tre diversi comuni. Se io avessi pagato subito, la sanzione sarebbe stata modesta, inferiore ai 50 euro. Mi sembra quasi strizzare l'occhio, paga subito che ti passa. Mi stavo chiedendo, non credo sia possibile che non siano incorsi altri automobilisti in questa disavventura. Mai visto l'autovelox segnalato, mai testimone di problematiche particolari. Sulla mia Subaru diesel, in 109.000 chilometri ho un consumo medio di 5,8 litri per 100 chilometri, il che testimonia che vado piano. Tutto qui, buongiorno. E qui bisognerebbe scomodare Maurizio Caprino, soprattutto sulla questione della visibilità dei rilevatori di velocità, Mauro, o sbaglio? Quali altri problemi si evidenziano in questa storia di questo ascoltatore? Sì, anche sulla correttezza poi di questo tipo di procedure. Spesso sono emerse, ma sono anche state censurate poi dai giudici amministrativi, comportamenti di quei comuni che usano, per così dire, i limiti di velocità brutalmente per fare cassa, non ai fini di garantire una maggiore sicurezza, di aumentare la sicurezza sulle strade. Questo è un comportamento che è stato censurato, ripeto, anche dalla giurisprudenza in più di un'occasione. Vuoi benissimo, partire Mauro, con il nostro ospite? Direi che è ora di cominciare a giustificare la mia presenza a Roma. Va bene, allora partiamo perché abbiamo anche lo stacchetto musicale adeguato. Molto bene. Ribadiamo ancora una volta, io mi trovo solamente per oggi separata fisicamente da Mauro, che mi raggiunge domani e saremo qui fino a giovedì all'Auditorium Parco della Musica a Roma, dove da oggi pomeriggio partono i lavori di Consulenzia 2020. Consulenzia è l'evento più grande, il più grande appuntamento italiano dedicato al mondo della consulenza finanziaria. 3 giorni di lavori aperti al pubblico, di professionisti, si alterneranno momenti di formazione ma anche di confronto sui temi di attualità economico-finanziaria, quindi l'outlook sui mercati che in questi giorni sono un filino disturbati da questa epidemia del coronavirus, ma a quanto pare anche stamattina le borse tentano di mettere da parte queste preoccupazioni e vogliono proprio ripartire. Si parla dei temi di attualità per la professione, del futuro di ANAS, cioè l'organizzazione appunto di categoria, perché il presidente Buffi al termine del suo mandato, e già qua c'è anche un po' tra virgolette di campagna elettorale, come è naturale appunto che sia quando si avvicendano i vertici di queste organizzazioni, quindi si parlerà anche chiaramente della questione istituzionale. E quindi con Maurizio Buffi, Mauro, se sei d'accordo, inizierei proprio facendomi fare da lui un bigliettino da visita di questa edizione 2020 di Consulenza, un pochino più dettagliato rispetto ai temi che avete in agenda. Presidente Buffi, intanto ben ritrovato ancora una volta, grazie. Grazie a voi. Sì, volentieri. Il format è quello che conosciamo, quello che avete appunto ricordato, ovvero sia 3 giorni di intensi lavori dove si incrociano i temi di scenario dei mercati a cura delle società di investimento. Sono oltre 50 tra l'altro i partner e gli sponsor che partecipano alla nostra kermesse, come è stata giustamente definita, ma soprattutto Consulenzia si conferma essere quello che fin dall'inizio ha voluto essere e che poi nel tempo è riuscita sempre di più a rappresentare, e cioè un palcoscenico, una vetrina, un modo per presentare e per confrontarsi sull'evoluzione della professione del consulente finanziario insieme a tutti gli altri interlocutori del mercato, dalle società per conto delle quali noi operiamo, alle autorità, alle società di gestione, ovviamente anche ai risparmiatori, soprattutto, come mi piace aggiungere ogni volta che parliamo di questi temi, quando questi si trasformano in investitori, perché quello è un passaggio molto delicato che richiederebbe per l'appunto l'assistenza e la consulenza di un operatore qualificato. Che differenza c'è fra le due figure, fra i due profili, Presidente? Perché questo è un tema molto interessante. Noi tutti siamo evidentemente dei risparmiatori. Quando è che facciamo il salto di qualità? Come risparmiatore, come lo dobbiamo percepire questo approccio diverso che dobbiamo assumere nei confronti della gestione della nostra finanza personale? Io direi che tutto sommato la differenza in sé è abbastanza semplice, poi è diverso il modo con cui si affronta l'essere risparmiatori o l'essere investitori. Tradotto, il risparmio non è altro che una forma, se vogliamo definirla così, di consumo differito, ovvero sia dato un reddito, dato una spesa, risparmio. Qualcuno ci riesce, qualcuno no, ma questo attiene ad altre questioni. Lo ricordava lei prima, il risparmio degli italiani è notevole, è ingente, ma perché da sempre gli italiani sono un popolo di risparmiatori, al di là di altre caratteristiche magari meno nobili, ma insomma questa sicuramente che lo hanno è. A che fare con la prima notizia che abbiamo dato sì, magari un popolo, no, adesso un popolo è troppo, diciamo che tra noi tra noi ci sono degli smemorati, e del resto anche appunto. Lo smemorato di Collegno, per chi se lo ricorda, poi era una storia di evasione fiscale peraltro. Comunque adesso mi sono fatto trascinare un po' dal discorso del Presidente, ma posso introdurre un elemento, un cigno anche io, Deborah, qui da Milano? Certo, certo. Sì? No, volevo stuzzicare il Presidente su questa cosa, il coronavirus. Rimandiamo per tutti gli aggiornamenti di tipo medico e sanitario a Obiettivo Salute dopo questa trasmissione, ma dicevo, il coronavirus ci sta dimostrando che c'è una interconnessione oramai ineliminabile tra tutti i paesi del mondo, in sostanza, perché una volta si diceva il battito d'ali della farfalla a New York provoca il terremoto sulla borsa di Tokyo, eccetera, ma in realtà il coronavirus ci dimostra come tutte le attività, diciamo anche di investimento economiche, siano interconnesse. Come valuta questa cosa? Cioè, bisogna essere anche molto reattivi come consulenti finanziari anche di fronte a questo tipo di informazione da dare al cliente. Magari uno si immagina di avere acquistato o investito su una cosa molto domestica e quindi che sia al riparo da qualsiasi tipo di intemperia, o no? Ma non potrei saperlo dire con parole migliori, caro Mauro, nel senso che e questo mi permette di concludere anche la seconda parte della domanda, cioè l'essere investitori vuol dire intanto entrare in uno scenario e in decisioni possibilmente consapevoli o il più possibile consapevoli, molto diverso dal risparmio, perché il risparmio di per sé lo potremmo anche equiparare a della semplice liquidità disponibile. L'investimento è qualcosa in cui io intanto introduco un elemento fondamentale nell'investimento, che è il tempo. Il tempo è quell'elemento fondamentale che, peraltro, se ben gestito, se ben curato, se ben trattato, mi consente di valorizzare quel risparmio che ho tradotto in investimento. Certo, l'elemento della globalizzazione, non lo scopriamo oggi peraltro, ci può derivare da qualsiasi fenomeno, peraltro anche inatteso. È stato citato il cigno nero, che a volte è anche piuttosto abusato oggi anche nella quotidianità, però potrebbe effettivamente appartenere a questa casistica anche il coronavirus, che abbia o non abbia gli effetti che poi si immaginano. Sta di fatto che uno degli antitodi ai cigni neri, quindi agli eventi estremi cosiddetti, è proprio quello di intanto diversificare l'investimento non solo per orizzonti temporali, breve, medio e lungo periodo, ma anche evidentemente per classi di attivo, lo cosiddetto asset allocation strategica, e poi eventualmente intervenire in corso d'opera con quello che viene chiamata l'asset allocation tattica, ovvero sia uscire o entrare dai mercati con un minimo di valutazione di consapevolezza, ma non è quello che però alla fine determina il risultato finale. Il risultato finale di un buon investimento è dato dalla diversificazione e dal tempo. E dal fatto di aver soddisfatto gli obiettivi finanziari che ci siamo dati fin dall'inizio, e una volta naturalmente che li abbiamo anche condivisi con il nostro consulente finanziario. Quindi non si tratta generalmente di ottenere il massimo rendimento possibile da un investimento, ma di fare in modo che alla fine di un percorso fatto insieme si riesca a toccare con mano l'obiettivo che ci si è dati inizialmente. Sì, se posso semplificare, metodo. Esatto. Un percorso da seguire, quindi una traccia, un progetto e un monitoraggio. Questi tre elementi dovrebbero consentire, oltre a questo, ovviamente, la professionalità di chi pone in essere determinate proposte di investimento, non solo quella, perché a volte non basta, quindi professionalità, trasparenza, aggiungo, vedi il caso della signora Di Nardò, integrità, oggi un altro elemento che viene assolutamente richiesto. Oggi, sempre, a dire il vero, però soprattutto quando si tratta di questioni di risparmio, e sappiamo quante situazioni drammatiche hanno coinvolto decine di migliaia di risparmiatori in Italia, prevalentemente nell'ambito bancario, questo vorrei ricordarlo e sottolinearlo, ma quando si adotta un metodo di investimento di solito si minimizzano i rischi e si massimizzano le opportunità. Poi il fatto imprevisto, inatteso, che sia il cigno nero o grigio o bianco, lo si può in qualche modo gestire attraverso, se è stata fatta adeguatamente, quest'opera di progettualità del proprio investimento quando si trasforma in investimento rispetto agli obiettivi che ci si dà. Molto Deborah. Bene, mi pare che abbiamo scaldato per bene la trasmissione. Adesso che cosa mi suggerisci di fare? Ma secondo me, essendo le 11:31 minuti, devi aggiornarci sui mercati finanziari, ovvero sia certo. Le borse. viva la fatturazione elettronica. Due di denari. Sulla Transpolesana, quella che da Verona va giù a Rovigo, c'è gente, amministrazioni che si sono fatti le case con i velox imboscati in mezzo alle piante. Piani di accumulo, io vorrei sapere, quando arriva un estratto conto, le società di investimento ti manifestano il controvalore e ti danno l'elenco dei titoli che hanno acquistato su tua indicazione o su tua delega, ma la mia domanda è: non c'è mai a fianco il valore di quello che hai versato al netto di eventuali rimborsi che tu hai ricevuto per poter controllare qual è la differenza tra il controvalore e quello che tu hai dato nel corso del tempo? Io sono incappato nella stessa storia in un comune che si chiama Sesto ed Uniti, provincia di Cremona. In una settimana ho preso 3 multe per la velocità di 70 all'ora col camion. Sono andato in officina a far controllare il tachigrafo e in realtà quando io vado a 70 la velocità effettiva è 69. Come mai il comune ha mandato la multa di 79 all'ora? Buongiorno, grazie. Risparmio, borse, traffico, tutto su Due di Denari, condotto in studio da Meassa e dalla Rosciani. Presidente Bufi, abbiamo degli ascoltatori che partecipano come sempre con grande creatività al nostro programma. Ci interessa in particolar modo una testimonianza di un ascoltatore, quello che non capisce bene come viene gestito il PAC, il piano di accumulo, e adesso ne parleremo. Prima però, Mauro, se mi consenti, vorrei far fare al Presidente Bufi, visto che si avvicina alla chiusura il suo mandato, un bilancio di questi suoi anni di lavoro ai vertici appunto di ANAS, che sono stati anni particolarmente sfidanti, perché l'organizzazione dal punto di vista istituzionale, quindi tutta la categoria, ha dovuto affrontare due grandi sfide, due grandi temi. L'organizzazione della cosiddetta Casa Comune della Consulenza, è nato l'albo unico che vi vede operare accanto al mondo della consulenza autonoma, Presidente Bufi, accanto alle società di consulenza indipendente, e poi abbiamo dovuto comunicare a tutti i sottoscrittori di prodotti di investimento i costi, e quindi avete dovuto gestire tutta la questione di MiFID 2. Allora, intanto ci faccia lei il suo personale bilancio, poi ci dirà quali sono stati i momenti più complessi da gestire e anche i risultati più interessanti che ritiene di aver portato a casa, e qual è l'agenda di lavoro che lascia a quello che sarà il suo successore. Sì, cerco di essere sintetico perché... Poi la conferenza la fa esatto. Oggi. Poi avremo degli appuntamenti istituzionali, infatti, uno di questi è il congresso di marzo. Ma allora, dal mio punto di vista, anni sicuramente sfidanti, sicuramente positivi, anni, come uso dire io, mutuando il termine da un celebre film, vissuti pericolosamente, nel senso che sono state tante effettivamente le sfide che si sono poste di fronte a noi, alcune perché si sono poste inaspettatamente, altre perché erano già in qualche modo programmate nell'agenda del settore. La MiFID era una di queste, perché voglio ricordare che la MiFID 2 è entrata in vigore un anno e mezzo fa, ma è stata preceduta dalla MiFID 1, cioè, quindi eravamo già nella legislazione europea, esattamente, comunque, nella cornice europea. E tra l'altro adesso si sta cominciando a parlare della revisione della MiFID 2, quindi dal mio punto di vista sicuramente positivi. Vedremo i colleghi, quale sarà la valutazione dei colleghi complessivamente rispetto all'operato, che peraltro non è un operato individuale, è un operato collegiale, perché gli organi dell'associazione non sono solo il presidente e il direttore generale, che pure hanno un ruolo preminente, ma ci sono ruoli, certo, esecutivi come il comitato, il consiglio nazionale e tutte le rappresentanze territoriali. E i punti fondamentali, intanto vorrei ricordare, anche se ha una profondità cronologica ormai datata, ma fu un banco di prova iniziale veramente problematico, fu il riuscire a evitare un obbligo, un ulteriore obbligo allora che si intravedeva per i consulenti finanziari, finanziari, anche se ancora ci chiamavamo promotori finanziari, che era l'iscrizione all'OAM, forse pochi se lo ricordano, l'organismo, ma fu una dei battaglia. Mediatori esattamente creditizi. Noi riuscimmo a dimostrare che non avevamo nulla a che vedere, con tutto il rispetto per ogni tipo di professione, è oggettivo che sia così. E quello fu già, dove tra l'altro l'associazione dette una prova di sé molto molto compatta e molto unita. Ma venendo ai temi invece che lei ha toccato e più recenti, certamente la MIFID, sulla MIFID oltretutto noi ci dimentichiamo una cosa importante, che è stato sia nel corso della prima ma soprattutto nel corso della seconda, quindi della sua revisione, è stato sostanzialmente salvaguardato e vorrei dire valorizzato il ruolo dell'agente collegato, il tied agent di derivazione europea, che è sostanzialmente il modello italiano. Lo dico e lo sottolineo perché questo è un tema che affrontammo all'epoca, perché si scontravano, in epoca peraltro ante Brexit, la posizione anglosassone e la posizione continentale. Poi la posizione continentale da noi sostenuta e non da soli, perché poi i successi molto spesso si ottengono se si fanno anche delle alleanze, ebbe la meglio e questo consentì di salvaguardare il nostro settore. Dopodiché il settore si può evolvere in più direzioni e il riferimento all'albo unico dei consulenti finanziari è una di queste. Sta di fatto che però i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede al momento hanno una prevalenza dal punto di vista della diffusione e della penetrazione sul mercato del risparmio incommensurabilmente più ampia rispetto ai cosiddetti fiolli. Poi sul fiolli c'è tutto un discorso da fare, sì, molto interessante, e fiolli compreso anche A parcella, chiedo scusa. È il nostro, come sa il presidente, il nostro vizio, insomma, per dir così, di intervenire quando magari qualche termine suona molto tecnico. Non e è allora, confidente per gli ascoltatori. Esatto, corretto, non è corretto. Così familiare. Deborah, abbiamo degli ascoltatori che premono. Quindi se il davvero? Ecco qua. Non scegli tu. Ma guarda, io vorrei intanto dare la parola a Gianni, che ci ha chiamato la provincia di Modena già da tempo. Buongiorno Gianni. Gianni si è preso una Forse ha preso una pausa. Allora vediamo se c'è Marco dalla provincia di Brescia. Marco, buongiorno. Sì, forse è Marco dalla provincia di Brindisi, BR. Ah, ecco, no, mi hanno segnalato Brescia. Scusi, le ho fatto fare un viaggio proprio, le ho fatto risalire tutta l'Italia. Sì, va bene. Confondo geografia per tutta la redazione di Due di Denari, direi che oggi ci portiamo a casa una bocciatura proprio. Chiedo terribile. Scusa a entrambi. Allora, no, cioè sia ai bresciani che ai brindisini. No, ma sono, ci chieda Marco. Ragazzi. No, allora, senta, io non sono esperto, però mi sto interessando da qualche anno molto superficialmente degli investimenti, e siccome ho constatato che per quanto riguarda quelli a rischio, generalmente investendo su un indice azionario si guadagna di più di quello che guadagna un fondo di investimento, cioè io ho un fondo di investimento e mi sono accorto che sta guadagnando di meno dell'indice europeo, europeo di borsa, sì. Su cui è basato, sì. E per quanto riguarda investimenti più sicuri, da quel poco che ho capito, per esempio i titoli di Stato ventennali o trentennali attualmente danno dei rendimenti interessanti, anche ci sono state delle aste anche intorno al 3%, adesso mi sembra sono scesi intorno al 2%, e sono prodotti che possono essere anche rivenduti sul mercato secondario con un buon guadagno. Allora mi chiedo a questo punto a cosa serve l'intermediario, insomma, se mi fa guadagnare di meno rispetto... Il consulente o l'intermediario. Grazie Marco, perché è un po' il tema, in realtà è centrale. Però Deborah e Presidente Buffi, io vi chiedo un attimo di pazienza, perché sta per scoccare il 45esimo. E allora sì. Io per celebrare e per venire incontro anche alle richieste che mi hai fatto arrivare lì da Roma, non ho proprio fatto un sonetto in questi 40 minuti nel frattempo, però durante la pubblicità 4 endecasillabi li ho buttati giù. E allora, ma con prego. Il tuo permesso... Chi sono io per oppormi, figurati. Se risparmiare è un obiettivo italico e deve essere financo un po' strategico, chi vuol sapere del pane e il companatico resti in ascolto qui, anche dopo il traffico. Hai qualcosa da dire in tema di soldi? Allora dillo a Due di Denari, la nuova rubrica in cui ogni pensiero conta. Domande, opinioni, commenti a ciò che va in onda e suggerimenti per le prossime puntate. Inviaci una nota vocale al 349-238-6666 nel corso della diretta. Oppure scrivici in qualsiasi momento a 2didenari@radio24.it. C'è... due di denari. Tanto a loro non gliene frega niente, loro guadagnano comunque anche quando i risparmiatori perdono. Allora, Presidente Buffi, siamo rimasti alla questione che ci ha posto l'ascoltatore, che in realtà denotava comunque un profilo di risparmiatore barra investitore molto preparato, quindi capace di operare dei confronti fra l'attività e il risultato che può generare un fondo di investimento rispetto a un titolo di Stato, quindi molto attento anche alle dinamiche di mercato. Allora, è anche abbastanza possibile che lui metta in discussione l'operato di un consulente, visto che lui è comunque una persona attenta a quello che accade attorno a noi. Non siamo tutti così e quindi magari c'è chi ha bisogno un po' di più di essere accompagnato da un consulente. Però in sostanza, insomma, rispondendo ad una perplessità, magari se lei si trovasse a confrontarsi con una persona che le propone la stessa sfida, che cosa gli risponderebbe? Beh, intanto questo modo di approcciare il tema è assolutamente razionale, nel senso che ci sono dei soggetti, degli investitori o potenziali investitori che in virtù, lo dice, l'ha detto chiaramente il nostro ascoltatore, in virtù del fatto che hanno studiato, si sono interessati alla materia finanziaria, sono in grado o ritengono di essere in grado di prendere delle scelte in autonomia. Ma ci sta, voglio dire, parlavamo di 4.000 miliardi degli italiani, ma diciamo che questa è intanto più l'eccezione e non la regola. Dopodiché noi siamo i primi a dire, l'abbiamo sempre sostenuto, che bisogna accrescere il livello di alfabetizzazione media degli italiani, perché questo consente di intrattenere un rapporto più adulto tra domanda e offerta e quindi stimola anche il mercato a fare meglio. Dopodiché dovrei entrare nel merito e, pur capendo i ragionamenti che sono stati fatti, rilevare per esempio che quando si parla di rendimento molto spesso non si tiene nella giusta considerazione il rischio che comunque comporta, perché il rendimento presso a sé stante non esiste. Esiste il rischio, il rendimento corretto per il rischio. Tradotto, questa è un po' la differenza che corre tra gestione attiva e gestione passiva. Quando si paragona un fondo, poi bisognerebbe sapere quale fondo, di fondi ce ne sono migliaia in circolazione, esatto, con un indice, è evidentemente il paragone, che pure c'è, comporta un approccio agli investimenti un po' diverso. L'indice è gestione passiva, quindi sostanzialmente se l'indice guadagna, guadagna, se l'indice perde, perde, e quindi l'attività di gestione, e sostanzialmente che si traduce nel minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità, certo, è delegata viceversa alla gestione attiva. Infatti bisognerebbe vedere diversi, se nella fase in cui l'indice a cui lui si riferiva perdeva molto, magari un fondo di pari qualità, diciamo di pari caratteristiche, perdeva altrettanto o arginava le perdite. Mi permetto di aggiungere che in ogni caso, siccome bisogna essere molto pragmatici, l'esistenza di un soggetto che è il consulente finanziario non nasce per caso, nasce perché le scelte di risparmio rispetto a 10, 20, 30, 40 anni fa sono diventate molto più impegnative, molto più complesse, molto più difficili, e questa è una sfida per gli operatori sicuramente, per l'industria, per l'efficientamento anche dell'industria e anche per i risparmiatori quando, certo, diventano investitori, rispetto alle considerazioni che facevamo prima. Tra l'altro, Mauro, non so se ti interessa questo argomento per poterti confrontare con Maurizio Buffi, oggi abbiamo tutto il grande tema della sostenibilità, che è la nuova grande avventura che saranno chiamati a gestire i consulenti finanziari ma anche i risparmiatori. Certo, questo è il tema, diciamo, che abbiamo visto emergere proprio in questi mesi, Deborah, ma non trascurare neanche l'aspetto comprensibilità che citava adesso il Presidente, e trasparenza, perché abbiamo nel frattempo recuperato anche la telefonata di Gianni, che dovrebbe chiamare dalla provincia di Modena, ma non mi assumo responsabilità, sentiamo. Pronto? Se è così. Pronto, buongiorno. Ti sento, buongiorno. Allora, lei lamentava, mi pare, un problema di trasparenza, cioè ha dei fondi di investimento ma non riesce a capire come vanno. Perché? Ce lo spieghi. Allora, si tratta di questo. Allora, io sono correntista Unicredito. Unicredito aveva dei fondi chiamati Pioneer. Stati assorbiti da Amundi. Da quando è Amundi non li vedo più. Sono le 24 ore, Televideo Rai, sono spariti. Però quest'anno qualcuno dovrebbe aver comunicato qualcosa, quindi addirittura proprio una totale mancanza di informazioni. Ho chiesto anche in banca, nessuno lo sa. non me lo sanno dire. Questo è un comportamento invece che ci lascia più perplessi, Gianni. Però adesso allarghiamo il tema, perché Deborah, c'era anche quel messaggio via WhatsApp che era arrivato e abbiamo ascoltato in precedenza, sì, sulla chiarezza dei piani d'accumulo, ad esempio. Cioè, il controvalore. Anche del quando PAC, la comunicazione c'è, e rivolgo la provocazione al presidente Buffi, anche quando la comunicazione c'è, a volte è una comunicazione esoterica per iniziati, per super esperti della materia. Non si riesce a parlare più semplice. Certo. Stavo peraltro pensando di nuovo anche a Gianni, perché mi colpisce molto la perentorietà con cui ci ha comunicato questa sua vicenda, ma bisognerebbe capire se ha sottoscritto questi fondi con un consulente. Allora in quel caso lo si tempesta di telefonate fino a quando non ti dà la comunicazione che cerchi. In caso contrario, se uno si è costruito un giardinetto di fondi per conto suo, magari fa un po' più fatica. Presidente, ci siete anche per quello, per essere, sì, un po' stressati dalle nostre telefonate. Assolutamente, noi siamo 24 ore su 24, come si suol dire, facendo una considerazione di carattere un po' estremo, ma certamente sempre disponibili, che tra l'altro è uno degli elementi del modello di servizio che è premiante, per l'appunto. Al netto di questo, andiamo sulla trasparenza, mi sembra che era questo il tema importante. Allora, sulla trasparenza non bisogna essere equivoci. La trasparenza è un elemento di sostanza nel rapporto tra investitore e consulente, o intermediario in generale, perché in questo caso quello che lamentava l'ascoltatore a proposito del PAC, del piano di accumulazione del capitale, che peraltro sottolineo è un tipo di modalità e di strumento particolarmente interessante, proprio perché ha in sé gli elementi di anticiclici rispetto al mercato, chiuso anche questa parentesi, l'obbligo di trasparenza è in capo intanto all'intermediario dal punto di vista della cosiddetta reportistica. Quindi se l'ascoltatore lamentava l'assenza di un dato importante, ha fatto bene a farlo, perché in realtà quello dovrebbe esserci. Ovviamente anche qui la reportistica, pur seguendo degli standard, ogni società la fa un po' a modo suo. E questo mi consente di fare un'altra considerazione sui temi della trasparenza legati alla MiFID. Noi siamo tra coloro, come associazione, che per esempio auspicava che relativamente agli obblighi informativi ci fosse una sorta di standardizzazione, perché questo consentiva intanto una maggiore fruibilità da parte dell'investitore quando appunto veniva informato, e questo avviene almeno una volta l'anno, e poi anche la possibilità di confrontabilità tra diversi intermediari. È un elemento su cui ci stiamo battendo, perché riteniamo che ormai sia superato, è anacronistico pensare di doversi ergere dietro la barriera dell'opacità. La trasparenza fa crescere il mercato, perché fa crescere sia gli operatori sia i risparmiatori, che a volte, mi permetto di dire, dovrebbero essere anche un pochino più attenti alla reportistica che ricevono e fare le domande giuste, le domande pertinenti. Questa che ci rivolgeva l'ascoltatore la trovo corretta. Sono documenti che non si leggono come un romanzo, bisogna impegnarsi un po' di più. Presidente, il 2020 è l'anno dell'offerta obbligatoria dei cosiddetti prodotti green alla clientela, e quindi troveremo nelle possibilità offerte appunto dal nostro consulente anche quella di sottoscrivere soluzioni di investimento che abbiano questa connotazione appunto di sostenibilità. Come si sta formando la categoria? Perché non ci sono state poche criticità relative al formarsi su queste novità, bisogna saperlo spiegare bene un prodotto come questo. Beh, allora diciamo intanto una cosa: è vero che tutti i temi della sostenibilità vanno un po' di moda, ma lo dico rispettosamente. Basta pensare quello che è stato fatto all'inizio dell'anno, è stato detto da importanti autorità del mercato a Davos a proposito dei temi della sostenibilità, oppure penso addirittura al capo di BlackRock a questo riguardo. Però insomma, c'è bisogno di formazione, non c'è dubbio. Bisogna anche sfatare l'idea che investire nell'ambito della sostenibilità in generale, quindi ambiente, sociale, sia meno redditizio rispetto a non farlo. Non è vero, quindi ci sono delle buone possibilità, e quindi anche qui c'è bisogno di investire. I prodotti si stanno costruendo, si stanno confezionando, comincia a esserci una certa domanda, lato offerta, lato consulenti c'è la necessità e al tempo stesso l'opportunità di poter proporre una gamma di prodotti e di servizi che tengano conto anche di queste sensibilità sensibilità. E quindi io trovo che questo sia un valore aggiunto distributivo importante. Mauro, a te la scelta su come concludere la nostra trasmissione, questa prima trasmissione da consulenza. Ma guarda, allora Deborah, io propongo una riflessione doppia in un certo senso, perché abbiamo su WhatsApp, specialmente da WhatsApp, due tipi di messaggi. Gli uni molto puntuali, cioè persone che appunto intervengono per chiedere se scelgo un ETF, se scelgo qualcosa che è relativo a un indice, come mi devo regolare per non avere poi la delusione che lamentava il nostro ascoltatore, e gli altri invece che stanno su quello che ormai abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi anni di Due di Denari, cioè questa sorta di diffidenza totale nei confronti degli investimenti, non tanto dei consulenti ma degli investimenti. Secondo me, ma lo chiedo al Presidente Buffi, questa diffidenza che residua, cioè ma tanto non si guadagna, ma tanto è tutto un favore per le banche, è tutto un favore per il consulente, è ancora la sfida maggiore da vincere, o no? Presidente Buffi. Ma allora guardi, diciamo telegraficamente, c'è un problema culturale, non c'è dubbio, ma questo non si risolve nel giro di pochi anni, neppure di pochi lustri, ci vorranno decenni, ed è per questo che un'attività costante, metodica, ripetuta, la valorizzazione di operatori professionali sul mercato non può che far crescere, tra virgolette lo dico, la cultura finanziaria. Infatti prima parlavo di un minimo di alfabetizzazione e di educazione finanziaria. Ecco, il consulente nelle sue migliori best practice, queste nelle sue migliori espressioni, diciamo così, è anche un portatore sano di educazione finanziaria, e questo contribuisce alla crescita di tutto il settore. E poi, Presidente, siete tanti, se non siamo soddisfatti da quello che ci serve possiamo cambiare, sceglierne un altro, insomma il mercato è molto articolato anche da questo punto di vista, è ricco di opportunità. Grazie a Maurizio Buffi, grazie, buon lavoro per queste tre giornate.